penso a quando hai incrociato il mio sguardo, a quel giorno e a quel momento magico. I tuoi occhi color della terra e i capelli biondi come la sabbia. Sei un angelo disceso dal cielo, porti con te un messaggio e il tuo dolce sguardo. Il mio angelo sei tu, voliamo insieme sempre più su. Amore, dimmelo che tu mi ami sempre di più. Il mio angelo sei tu, vogliamo insieme sempre più su. Amore, dimmelo che tu mi ami sempre di più. Le tue mani sfiorano le mie, mentre per il domani mille fantasie. Parliamo al telefono tra risa e silenzi. Il mio cuore batte forte e chissà cosa pensi. Il tuo profumo perché si mischia col mio, e se ti allontani è come un addio. Se chiudo gli occhi vedo il tuo volto, il tuo sorriso è bello come un sogno. Il mio angelo sei tu, voliamo insieme sempre più su. Amore, dimmelo che tu mi ami sempre di più. Il mio angelo sei tu, voliamo insieme sempre più su. Amore, dimmelo che tu mi ami sempre di più. Sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Il mio amico.